24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Le 8, 16 minuti e 20 secondi, inizia la terza parte di 24 Mattino di questo martedì 3 marzo. Buongiorno cari ascoltatrici, cari ascoltatori da Simone Spezia e buongiorno Maria Latella. Buongiorno, buongiorno Simone, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. Oggi è una giornata piena di cose interessanti, sì, e di interventi belli. Sì, e interventi meno belli, però Simone, li vedo su certi siti che mi vengono anche segnalati da amici, non perché io sappia l'olandese, non lo conosco, ma un amico mi ha segnalato il sito istituzionale, un sito di Stato olandese che mette in giro informazioni errate allargando la zona gialla e confonde il disagio che c'è per i turisti, per alcuni musei chiusi, con il rischio sanitario. E giustamente ci chiediamo tutti, stiamo facendo abbastanza perché le istituzioni di altri paesi si comportino correttamente con noi senza mettere in allarme più di tanto? Perché sennò ci avevano ragione i cinesi quando se la prendevano con noi per un eccesso di precauzioni. Comunque questo sito olandese sta lì e l'ambasciatore olandese lo sappia. Decisamente non so, perché non ho visto il sito, non so leggere l'olandese, quindi mi fido. Mi fido. C'è un grande tema di comunicazione che ha a che fare con il come è stata gestita tutta la questione del coronavirus. Insomma, ha ben da dire il ministro degli esteri Luigi Di Maio oggi in un'intervista alla Stampa, che è irritato perché alcuni paesi stanno bloccando cittadini italiani all'estero senza alcun criterio. E però appunto è quello che sostanzialmente abbiamo fatto noi, almeno in parte, con la Cina. È frutto di una comunicazione che è stata oggettivamente un po' confusa. Forse bisognava pensare prima di tutto, no, insieme alla comunicazione in Italia, che già è stata carente, pensare anche alla comunicazione all'estero. Forse agli sarebbe effetti, stato corretto. Per fortuna dagli Stati Uniti arriva Mike Pence, il vicepresidente, a darci atto che forse abbiamo gestito almeno con trasparenza la cosa. Sì. Con trasparenza e forse con un pizzico di ingenuità. Allora, piccole cronache dal coronavirus. Visto che ne parlavi, cara Maria, il sindaco di Firenze, Nardella, sottoponendosi a inevitabili polemiche alle quali vedremo come risponderà, ha deciso musei gratis nel fine settimana a Firenze. Quindi, insomma, tutta questa idea del evitare gli assembramenti mi pare che cada. E poi questo... Quindi in contrasto con quello che hanno deciso al Louvre a Parigi. Assolutamente, assolutamente interessante. E il decreto contiene anche delle scelte curiose, no? Per esempio il divieto di servire al bancone da parte dei baristi. Sai che ieri un barista si è beccato una multa e una denuncia per aver servito una persona, Simone, ad un bancone. Ma abbiamo preso un caffè insieme ieri mattina in un bellissimo piccolo caffè milanese. Non lo dire, ce e denunciano dato pure banco. Noi. Non diremo dove, però. Per carità. Franco Frattini, ex ministro degli esteri, ex commissario europeo, presidente della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale. Buongiorno Frattini, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, Franco Frattini. Allora, con lei per parlare soprattutto, poi più avanti parleremo anche di coronavirus, lo faremo col presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, però con lei vogliamo parlare soprattutto di quello che sta succedendo al confine turco-greco. Carmelo Lauricella, abbiamo un passaggio audio da Evros? Le lacrime le sentite, la polizia che spara lacrimogeni sui migranti, il racconto di queste ultime ore di 120.000 persone che sono partite dalla Turchia e sono dirette verso l'Europa, e con la minaccia da parte del presidente turco Erdogan di sostanzialmente lasciar andare tutti, senza aver messo in chiaro tra l'altro che cosa effettivamente voglia. E il tema che vogliamo affrontare con lei, Frattini, è questo. Maria, prego. Queste scene hanno fatto venire in mente a chi ha visto il film Elysium, un film di qualche anno fa in cui i poveri restavano sulla terra mentre gli ultra ricchi vivevano in una specie di paradiso terrestre su una piattaforma nell'atmosfera, ecco, mi hanno fatto venire in mente quelle scene. Ora, il punto, a parte, come dire, l'emozione che creano queste immagini, il punto però, Frattini, è capire che cosa ha ispirato la scelta di Erdogan, e lei ci può aiutare, perché è chiaro che il presidente turco, con mossa cinica alla quale già in passato ci ha abituato, sta o chiedendo ancora più soldi all'Unione Europea dopo aver ottenuto già circa 6 miliardi nel 2016 per vigilare le frontiere, oppure sta facendo leva su un sentimento anti-rifugiati che è sempre più diffuso tra la popolazione turca per consolidare il suo pugno di ferro sul suo paese. C'è una certa ipotesi, una terza ipotesi, che voglia ottenere un aiuto in Siria. Sono tutte e tre possibili. Lei pensa che sia una di queste quella più concreta? Ci aiuti a capire perché l'ha fatto. Sì, guardi, io in molti anni sono stato, ai tempi di Chirac, di Schröder, quando l'Europa, come dire, marciava assai più unita di oggi, uno dei sostenitori dell'avvicinamento della Turchia all'Europa, sostenendo, e ne sono convinto anche oggi per allora, che si sarebbe dovuto fare uno sforzo per evitare di spingere la Turchia verso est, perché verso est la Turchia, ormai irreversibilmente proiettata lontano dall'Europa, su questo bisogna essere chiari, i negoziati sono formalmente aperti ma sono assolutamente morti. A est la Turchia ha trovato molte più opportunità concrete di quanto l'Europa, che diceva sempre no a tutto alla Turchia, potesse offrire. Ha trovato l'Iran, ha trovato la Russia e soprattutto, ecco perché tra le tre ipotesi io ne aggiungerei una quarta rispetto a quelle che lei ha fatto, ha trovato il ricordo di quello che la Turchia è, cioè è stata, meglio, l'impero ottomano. A est la Turchia si è ricordata di avere dominato una bella parte del Medio Oriente e del Nord Africa per molto e molto tempo, ed è questa la scelta che ha cominciato a fare Erdogan nel suo secondo mandato, quando ha abbandonato, forse non molti sanno, ma grazie a noi, grazie all'Italia, al nostro lavoro di politica estera, il partito di Erdogan era stato ammesso come osservatore permanente al PPE, al Partito Popolare Europeo. I turchi venivano a tutte le riunioni del PPE nel 2003, nel 2004, perché erano stati attratti in una dimensione che era la dimensione dell'Europa, dell'Occidente. Oggi Erdogan ha riscoperto l'Oriente, si rende conto che il suo ruolo di seconda forza militare nella NATO, la Turchia ha il secondo esercito della NATO dopo gli Stati Uniti, tanto per dare un'idea, ben più di Francia, Germania e Regno Unito. E chiaramente quel suo ruolo NATO era da un lato la sua forza, ma anche la possibilità di sfidare l'Occidente. Provate a cacciarmi via dalla NATO, provate a perdere quell'avamposto su tutto quel che accade di pericoloso nel Medio Oriente di oggi e del recente passato. E a forza di sfide, noi l'abbiamo sottovalutata la Turchia, noi abbiamo pensato che, essendo il secondo paese, la seconda forza militare dentro la NATO, mai la Turchia avrebbe potuto fare troppo contro l'Europa. È stato l'errore gravissimo che spesso si fa. In questi ultimi anni abbiamo assistito alla Turchia che si comprava i missili S-400 russi, totalmente incompatibili ovviamente con la NATO, e li installava sul territorio turco accanto ai missili Patriot della NATO che sono ancora lì. Abbiamo assistito alla Turchia che manda le navi da guerra a cacciare via una missione italiana dell'ENI che stava facendo le esplorazioni petrolifere in acque libere di Cipro, dicendo che no, quelle erano acque di sua influenza. Ha fatto un accordo con la Turchia, con la Libia, e ha fatto un accordo su una creazione di un asse per la presenza e l'espansione energetica, e quindi un grande corridoio che attraversa il Mediterraneo orientale tra Tripoli e Ankara. Ha dato la sua presenza in quindi con grave danno per l'ENI, che è la nostra principale azienda energetica. Con gravissimo danno. Ha detto che avrebbe schierato 5.000 soldati a Tripoli, alla faccia, scusate l'espressione, dell'Italia e del suo ruolo storico, e li sta schierando. Sì. Ma sono gente armata che spara per consolidare. Quindi la mia conclusione è: la Turchia ha riscoperto di essere una potenza ultraregionale, non solo, non le basta più il ruolo importantissimo sul Mar Nero, la hub energetica, passano da lì tutte le rotte petrolifere, il Nord Stream, il South Stream, il TAP, tutto passa da lì, non basta, vuole un ruolo dominante da paese sunnita non arabo, quindi stranissimo che un paese sunnita sia in contrasto con l'Arabia Saudita, il paese più, eppure lo sono, perché i turchi non sono arabi e i sauditi lo sono, quindi vuole cercare un suo ruolo, ed è per questo che sta facendo tutto questo. Sui migranti, noi gli abbiamo dato un assegno da 5 miliardi di euro, senza fiatare, senza precondizioni. Questo è stato. Abbiamo pensato che i turchi scherzassero. Oggi hanno aperto il rubinetto, perché cosa vogliono? Vogliono il visa free regime, vogliono che i turchi siano ammessi a circolare in Europa senza il visto. Il visto è del tutto anacronistico per i turchi, bisogna dirlo. Abbiamo dato il visa free a tutti i paesi dei Balcani, l'ho fatto io da commissario europeo, ma ai turchi ancora no, questo è pazzesco. Quindi solo questo Frattini vuole alla fine, Erdogan? Vuole un segnale di riconoscimento. Okay. Se voi senta, mi prendete il visto, mi considerate come la Thailandia, ecco, questo è il punto. Senta Frattini, poi qua c'è, per così dire, il tema delle opinioni, no, su quello che sta facendo Erdogan. Stamattina ne abbiamo lette un paio. Da una parte si dice è il ricatto del sultano, ricatto che però segue a quello che è già successo e ci diceva lei, l'assegno in bianco che sostanzialmente abbiamo firmato noi europei. E dall'altra parte c'è chi dice: guardate ragazzi che questo ha ragione, cioè ci sono 3,5 milioni di profughi siriani in Turchia, in Siria c'è la guerra e chi bombarda sono Assad e i russi, non è lui, e quindi se questi scappano, scappano mica da lui. Ha ragione in questo, e ancora una volta all'inizio della crisi siriana noi europei abbiamo, come gli europei questa volta hanno fatto con l'Italia o con la Turchia, non cambia, ma sì, tanto è un problema turco. Arrivano a Gaziantep, arrivano al sud della Turchia, prima che arrivano da noi, come pensavano i nostri amici olandesi di cui parlavate prima, che dicono prima che arrivino da noi i migranti che sbarcano a Lampedusa, e questo hanno pensato, l'hanno pensato dell'Italia, ma l'hanno pensato ancora di più della Turchia. Come sarà possibile che attraversino prima il mare, prima le isole, poi arrivino alla terraferma, dalla terraferma comincino a camminare, ma lì ci sono 5 frontiere, c'è la Macedonia del Nord, c'è prima la Grecia, c'è la Serbia, c'è la Bosnia, c'è l'Ungheria, quando mai? Poi se li sono trovati nel piazzale della stazione di Monaco di Baviera, e allora la cancelliera Merkel si è resa conto che invece arrivavano, e come. Quindi l'altro errore di sottovalutazione è che la Turchia se li sarebbe tenuti sempre e per sempre senza nessuna garanzia. Non bastano i soldi alla Turchia. La Turchia vuole essere, come ho accennato, considerata un interlocutore pari, almeno pari, a quello che noi facciamo con altri grandi interlocutori, ad esempio con la Russia. noi con la Russia ragioniamo di futuro della Libia. Quanto lo abbiamo fatto in questi ultimi anni con la Turchia? Quasi mai, perché abbiamo detto, ma sì, la Turchia ha interessi economici, l'abbiamo pizzicati che fanno un po' di traffico di armi, mandano le armi ai jihadisti, ai fratelli musulmani, ma niente di più, errore grave. Con 5.000 uomini armati a Tripoli, la Turchia ha consolidato la sua influenza neo-ottomana sulla Tripolitania, che è il luogo da cui gli italiani, come dire, pensavano di non doversene mai andare. E purtroppo con una presenza del genere o mandiamo gli uomini in armi, cosa del tutto impensabile, oppure dalla Tripolitania siamo abbastanza fuori. Ci vuole il riconoscimento politico. Sì. In politica estera gli amici, i vicini, non ce li scegliamo, ma quando ci sono ci dobbiamo trattare. E se tu fingi di ignorarli, e loro invece ci sono, per farsene accorgere hanno aperto i rubinetti. Questo e continueranno a farlo. Allora, grazie a Franco Frattini, ex ministro degli esteri, ex commissario europeo, presidente della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, per averci tratteggiato il quadro della situazione. Una pausa e poi torniamo al coronavirus, agli effetti economici del coronavirus, col presidente di Confindustria. Mattino. Vorrei sapere come mai, visto che il coronavirus è così poco letale, c'è tutto questo allarme, che non c'è neanche per l'influenza che ha fatto molti morti. Grazie. Allora, il punto è che in realtà la letalità, allora, è più letale dell'influenza e questo l'abbiamo appurato. Il punto è che la letalità del coronavirus non è ancora esattamente calcolabile, giusto per essere chiari, perché i numeri sono, come si dice, ongoing, nel senso che è un nuovo virus e soprattutto per questo virus, a differenza dell'influenza, non c'è il vaccino e quindi è questa la grande preoccupazione. No, c'è una buona notizia su questo fronte e arriva da Israele, perché pare, o almeno alcuni scienziati israeliani lo hanno comunicato, che in qualche settimana potrebbero avere un vaccino. Però non c'è, vedremo, ancora. No, vedremo, no, quanto, cioè, è efficace. Il tema è che non c'è ancora. Insomma, ma quindi se ci fosse in arrivo tra qualche settimana, questo secondo il Jerusalem Post sarebbe un'ottima notizia. Perché finora invece si parlava di un vaccino che arrivava tra 2 anni. Gli scienziati israeliani sarebbero parecchio avanti rispetto a questa cosa. E se arrivasse il vaccino, loro fanno, come dire, il business della vita in Israele, e noi forse chiudiamo questa fase che ci ha portato parecchio danno. Il vicepresidente americano Mike Pence, che è la persona un po' che si sta occupando della vicenda, è stato incaricato dal presidente americano Trump di seguire il dossier, ha detto che entro settembre probabilmente potremmo avere il vaccino, vedremo. Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, buongiorno, benvenuto ai nostri microfoni. Buongiorno a voi. Prego Maria. Buongiorno Presidente. Allora, i dati, quelli che arrivano anche dall'OCSE, sono preoccupanti per l'economia mondiale che secondo l'OCSE è minacciata in maniera davvero pesante, e sempre l'organizzazione che ho citato vede un'Italia a crescita zero nel 2020, con un PIL che scenderà dallo 0,2% del 2019 allo zero del 2020. Le chiedo, quello che ha detto il commissario dell'Unione Europea Paolo Gentiloni, vale a dire che Bruxelles è pronta a utilizzare tutte le opzioni e gli strumenti a disposizione, quelli che ha, per sostenere la crescita, la incoraggia? Perché è chiaro che da soli non ce la possiamo fare. È vero che ci sono state delle sorprese positive nelle pieghe, appunto, del MEF, perché c'è stato un vistoso calo del rapporto deficit-PIL, ma da sola l'Italia non ce la fa. Allora, Confindustria, che cosa si aspetta dall'Europa? Dall'Europa si aspetta un grande piano straordinario che prenda consapevolezza della dimensione quantitativa e temporale del problema, che è evidente, È evidente che avremo un calo di domanda privata in Italia e in Europa, a partire dal turismo, ma non solo, chiaramente avrà degli effetti anche sulle abitudini di acquisto dei cittadini europei ed italiani, e questo va compensato con una domanda pubblica che chiaramente deve reagire immediatamente, significa investire in infrastrutture con una dotazione rilevante. Un piano straordinario significa anche mezzi innovativi e fare un salto di qualità in chiave europea, cioè per esempio finanziare operazioni di infrastruttura a partire da 3.000 miliardi di euro da realizzare immediatamente, non in 10 anni, finanziabili per esempio con Eurobond. Questa sarebbe una prima reazione dell'Europa alla chiave economica, perché noi abbiamo due aspetti da affrontare. Una è quella sanitaria, dimostrando al mondo come dignità come paese, capacità di reazione, di governo della questione sia sanitaria che economica. Quindi a questo si aggiunge poi una questione italiana, e significa attivare quanto prima i cantieri da risorse già disponibili. Vedi il modello Ponte Morandi con tutti i correttivi indicati anche dalla nostra Associazione Nazionale Costruttori. Quindi la domanda privata, ai noi, arretrerà. Il turismo sta purtroppo dall'Italia avendo già una serie di disdette per Pasqua, dato gli effetti anche comunicazionali legati al virus. Questo comporta e deve comportare una reazione anche immediata dal punto di vista temporale. Presidente, già lo accennava lei in parte, noi arriviamo a questa situazione con una specifica italiana, ossia un livello di crescita molto basso, un problema di produttività, un più 0,3%, i dati sono di ieri per il 2019, e già una previsione di crescita piuttosto bassa per il 2020, e quindi ci arriviamo peggio degli altri. Nello specifico, il paese di cosa ha bisogno? Nello specifico il paese ha bisogno di quella che era una priorità, adesso diventa un'emergenza in chiave economica. Quindi il paese ha bisogno di usare le risorse al meglio per valutarle in termini di effetti sull'economia reale. Quindi attivare immediatamente, quello che dicevo prima, una dotazione infrastrutturale. Abbiamo tante risorse disponibili che non riusciamo ad usare, quindi vanno accelerate come uso nei tempi e nella quantità di risorse. Aprire un fronte sulla questione credito, anche questo è un elemento essenziale per aiutare questo periodo di transizione da tutte le imprese che avranno dei cali di fatturato in questo periodo, speriamo non lungo, legato chiaramente alla criticità economica. Questo è un aspetto importante, perché avremo una fase di transizione del mondo dell'economia privata, e questo però va aggiunto, come indicavate voi, chiaramente a un aspetto prevalentemente europeo. Quindi c'è una questione italiana e c'è una questione europea che convergono, dovrebbero convergere tutte sulle infrastrutture, cioè attivando domanda pubblica che deve compensare il calo della domanda privata. Se le persone non acquistano o spostano le loro decisioni di acquisto, è evidente che in questa fase, diciamo, attivare investimenti privati diventa più difficile, perché i consumi chiaramente arretreranno, e quindi occorre una compensazione quantitativamente rilevante in chiave di infrastrutture e anche temporalmente immediata. I tempi che abbiamo in Italia non sono più all'altezza di affrontare questa emergenza. Chiaramente vale anche per l'Europa, ma a partire da noi. E tra l'altro sarebbe anche un bel messaggio come paese, un paese che deve difendere la sua dignità, esprimere una capacità di reazione al proprio interno e nel mondo intero, e far comprendere che ha grande consapevolezza e capacità di governare sia l'emergenza sanitaria che reagire in chiave economica. Presidente, lei in tutti questi mesi ha molto spinto per il dialogo con la Confindustria francese e anche con quella tedesca. In queste ore vi siete sentiti con i suoi omologhi di questi due paesi? Come vedono loro la pressione che si deve necessariamente fare su Bruxelles perché ci sia una maggiore elasticità nei paesi? Perché adesso l'Italia è stata duramente colpita dal coronavirus, ma comincia a esserlo anche la Francia, lo è la Spagna, lo è anche se tiene molto basso la comunicazione, anche la Germania. Sì, ci siamo sentiti, anche perché i tedeschi ci hanno chiesto appunto qual era la situazione in Italia, e quindi abbiamo, come dire, avuto un primo dialogo. evidente che con loro occorre riprendere quanto abbiamo proprio sottoscritto a Roma in occasione di un trilaterale con la Confindustria tedesca e francese, in cui si ponevano due aspetti all'attenzione dei rispettivi governi: uno macro, e cioè che la sfida è tra Europa e mondo esterno, non tra governi d'Europa, e un secondo di attivare una serie di investimenti. In quella prima fase, diciamo che i colleghi tedeschi erano un po' più timidi anche nell'uso di strumenti come gli Eurobond. In questa fase io penso che dobbiamo prendere tutti consapevolezza che purtroppo questo virus comporta appunto delle decisioni di acquisto che si spostano, e quindi occorre agire in chiave straordinaria. È come se avessimo subito un conflitto non tra stati, ma purtroppo dovuto al virus, che tra l'altro, come dire, ricordiamolo, fa guarire il 95% di persone che guariscono da sole. Occorre per esempio intensificare, potenziare i reparti di terapia intensiva per quel 5% che è guaribile per via ospedaliera. Questa è l'altra questione sanitaria. Un aspetto importante di rimente diventano le infrastrutture in chiave europee, e il secondo, affrontare il nodo credito, come dicevo prima, potenziando il fondo di garanzia per quelle imprese che subiranno appunto dei cali di fatturato, e aiutarle nella fase di transizione e non perderla in questa fase, sperando che duri chiaramente poco. Sì, del resto il fronte di preoccupazione è forte. Se, come titola oggi il Sole 24 Ore, lo abbiamo raccontato, c'è il pezzo di Luca Orlando e cita i dati del CERV, nello scenario peggiore naturalmente un'impresa su 10 andrebbe a rischio fallimento. Oggi, sempre sul Sole 24 Ore, Presidente, il Ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli insomma mette sul piatto un po' delle misure che potrebbero essere prese rapidamente: eco bonus al 100%, l'ampliamento degli incentivi per Industry 4.0, sono anche questi elementi importanti, immagino. Sì, sono elementi importanti anche nel concetto, vanno tutti accelerati, ma ripeto, qui bisogna partire da alcune priorità. Il primo, sblocco delle infrastrutture, quindi attivazione della domanda pubblica italiana ed europea. Il secondo punto fondamentale è attivare una questione credito appunto che accompagni questa fase di transizione, e poi semplificazione, investimenti privati, inclusione giovani. Ma i primi tre punti, cioè infrastrutture italiane, europee e credito, sono la grande priorità su cui dobbiamo intervenire. Aggiungo un altro aspetto, come dire, che viene usato strumentalmente, maliziosamente da alcuni nostri concorrenti nel mondo, perché noi diamo per scontato il Made in Italy, diamo per scontato che siamo la seconda manifattura d'Europa, e ce ne accorgiamo evidentemente quando accadono momenti di questo tipo in termini di effetti ai noi negativi che potremmo subire. C'è una strumentalizzazione del mondo che dice di non usare o di non comprare da parte di concorrenti, chiaramente, prodotti italiani, perché in quanto toccati da italiani potrebbero essere contaminati. Questo non è affatto vero, perché ovvio, bisogna difendere. Partiremo anche con una campagna molto forte internazionale e nazionale su questo aspetto, ma questo è un altro elemento che strumentalmente e maliziosamente qualcuno vuole usare contro l'industria italiana, che è un asset importante dell'industria del mondo e la seconda manifattura d'Europa. Ma ciò riguarderà la difesa dell'industria europea, e quindi riporta al centro la questione industriale europea, che è un elemento determinante per la stessa coesione in Europa. Quindi difendere la questione economica significa difendere la questione sociale in Europa, ma anche dare una grande capacità di reazione da parte di questa Europa, che deve ritornare ai suoi fondamentali, pace, protezione e prosperità, che erano i fondamentali costituenti dell'Europa nella fase post-bellica e che adesso ritornano a essere tali. E occorre una capacità politica di grandissima visione, una capacità di reazione però che sia quantitativamente rilevante. Non basta, tanti per capirci, i 3 miliardi di sforamento che danno all'Italia, né basta, come dire, un'operazione sicuramente positiva di flessibilità, tra virgolette. Occorrono strumenti totalmente diversi e tra l'altro da spendere immediatamente. Tanti per capirci, il modello Green New Deal, 1.000 miliardi in 10 anni, va ribaltato, e cioè sono 3 miliardi da spendere nei prossimi mesi, finanziabili evidentemente in 30 anni, e non, come dice, 1.000 miliardi da spendere in 10 anni per n paesi, che diventa un effetto sull'economia reale marginale. E in questa fase ne abbiamo bisogno di un'operazione straordinaria e shock nel mondo dell'economia. e anche di dimostrare al mondo che questa Europa è capace di reagire e non subire shock negativi, ma determinare shock positivi nell'economia. Sarebbe un bellissimo atto di dignità di tutta l'Europa e di tutti i cittadini perché europei. Si sta giocando molto l'Europa in queste ore. Senta Presidente, sempre citando il Sole 24 Ore, che lo mette in prima pagina, c'è anche una buona notizia, cioè quella che vede il deficit pubblico pari all'1,6% del PIL, il più basso dal 2007, e questo nota anche l'ex ministro dell'economia Tria, è un fatto positivo. Che cosa bisogna fare per non sprecare questa buona notizia? Bisogna usare le risorse non per captare consenso, ma per costruire degli effetti sulla cosiddetta economia reale. Bisogna ragionare con una visione di lungo termine, larga e lunga. Di lungo termine, pensando agli effetti sulla cosiddetta economia reale, e quindi sulla società italiana, e larga in termini quantitativi. Dobbiamo ricominciare ad investire sul futuro e non a giocare una partita solo sul presente, sul consenso e sulla prossima campagna elettorale. Occorre una grande consapevolezza che in questa fase delicata occorre una convergenza nazionale, dalle parti sociali al governo, alle istituzioni territoriali, a tutte le forze politiche. Questo è un momento delicato della vita dell'Europa e dell'Italia e questo è un momento in cui dobbiamo recuperare senso e spirito di comunità che abbiamo perso da tempo. Presidente, c'è un elemento al quale accennava già lei, che è il tema un po' di quello che è stato il grande difetto di comunicazione di questa fase italiana, che ovviamente ci ha esposto di più. A questo punto i casi accertati in Italia, positivi in Italia, sono oltre 1800, negli altri paesi sono ridotti, ha giocato il fatto che facciamo anche i tamponi a quelli non sintomatici, agli asintomatici, però fatto sta che in questa situazione noi sembriamo un po' l'anello debole. In questa chiave, ci diceva qualcuno, insomma, il rischio è che le aziende si ritrovino con i concorrenti non solo con le fake news delle quali ci raccontava lei, ma semplicemente perché, insomma, i rapporti con i clienti, quando le aziende italiane sono fornitrici, si allentano un po', insomma, i concorrenti stranieri che ovviamente arrivano e sostanzialmente prendono il nostro posto. Pensa che sarà un problema a medio termine o si interromperà nel breve perché tanto il resto d'Europa finirà nelle stesse condizioni? Nella capacità di governo della questione sanitaria, perché è evidente quello che lei dice, se noi spostiamo le fiere, le spostiamo a breve, recuperiamo gli ordini per i prossimi anni, se diamo l'impressione che deve essere sostanziale, chiaramente non solo di percezione, che governiamo la questione come Italia e come Europa, ma in particolare come Italia, è evidente che i clienti ritornano nelle nostre imprese e non hanno questa percezione, come dire, di criticità rilevante, rimettendo il problema nel suo giusto perimetro. Un aspetto importante in cui dobbiamo appunto governare questa fase, anche dal punto di vista comunicazionale, evitare allarmismi, parlarne con trasparenza, governare la questione, gestirla quanto prima e chiaramente affrontare anche quella che ai noi è l'emergenza economica. È inutile aspettare qualche mese vedendo, come dire, dati che purtroppo arretrano. La reazione occorre adesso, perché se cominciamo adesso potremmo avere gli effetti tra qualche mese, se cominciamo qualche mese abbiamo già perso un po' di strada per appunto in termini temporali. Quindi occorre fare queste cose contemporaneamente. All'interno di questo occorre avere consapevolezza che questa fase delicata non ci permette né di fare polemiche né di avere conflitti, ma di convergere tutti insieme. Questa è la sfida dell'Italia e dell'Europa, degli italiani e degli europei. Questo è il momento in cui i grandi assi istituzionali del paese trasversali devono dimostrare grande senso di responsabilità nel linguaggio, nel comportamento, nella reazione, nell'interesse generale del paese. Questo sembra essere infatti anche il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Le chiedo, questa mattina in un'intervista a Giorgia Meloni, intervista Repubblica, si dichiara contenta che l'ipotesi della quale si era parlato in queste settimane, quella di un governo di unità nazionale che sembrava soprattutto voluto da Renzi e Salvini, sia stata affossata, e dice questo non è il momento di cambiare governi, ma appunto di procedere e dal suo punto di vista, anche se sta all'opposizione, Meloni dice quel che pensa di bene e di male dell'azione del governo in queste ore. Ha ragione Giorgia Meloni? Guardi, noi non entriamo nel merito dei metodi. È evidente che, come dire, per rifare un governo occorrono poi mesi, mentre poi non si reagisce. Qui si pone un problema di immediatezza nella reazione e nei comportamenti. Mi sembra un atto di grande responsabilità la dichiarazione della Meloni. In questo momento, come dire, non dobbiamo pensare alle modalità, come dire, di governo o ad altro, premesso che noi come Confindustria non entriamo nel merito di queste, come dire, metodologie che non riguardano noi. Qui c'è un problema di reazione immediata e di comportamento coerente. E su questo, non a caso, l'appello che abbiamo fatto con tutte le altre categorie datoriali, con CGL, CISL, UIL, invoca un senso di responsabilità a partire da noi, a tutte le forze politiche del Paese. E mi sembra che questo messaggio sia coerente della Meloni. La ringrazio, grazie a Vincenzo grazie Boccia, a Presidente, grazie, Presidente Confindustria, per essere stato con noi. Cara Maria, ci sentiamo domani alle 8.20, naturalmente, come sempre. Sì, a domani Simone, ciao a tutti. Grazie Carmelo Lauricelli, regia, Giorgio De Luca in assistenza e redazione, insieme a Gloria Guerrera, Alessandro Marco Tulli, Margherita Ina e Francesco Ciaraffo, i nostri autori. Abbiamo 10 secondi in più per dirvi: c'è la pagina Facebook di 24 Mattino, il canale Instagram, quello Twitter. E ovviamente potete scriverci se siete legati alla vecchia email 24mattino@radio24.it. Rispondiamo, magari con calma, magari non subito, ma rispondiamo. A domani alle 6.30. Ciao.